Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I terroristi vogliono ucciderci. Quando non ci uccidono, vogliono farci vivere come piace a loro, cioè nel terrore, chiusi in casa, blindati nelle serrature. Questo ovviamente non può essere. Quindi io credo che noi non possiamo rinunciare alla nostra identità. Aggiungo, non dobbiamo rinunciare alla nostra identità. Così dice Renzi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, voi che ne pensate? Come sempre lo sapete, che qui a Effetto Notte ci sono due spazi per la vostra interazione, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure ci sono i messaggi SMS al 349-238-6666. Del resto, come dargli torto a Renzi? Perché in effetti che cosa spinge dei giovani uomini efferati a fare una strage in un concerto dove ci sono tanti altri giovani, altrettanti giovani come loro, che semplicemente così stanno godendo della musica, oppure gente che al tavolino parla della propria vita con una persona accanto, di fianco, un amico, un parente, l'amore, eccetera. Di questo, tra l'altro, parleremo. Che cosa si muove nella testa di questi uomini? Ne parleremo con uno psichiatra che è esperto anche del connubio tra salute mentale e tra psicologia e crimine. Ha scritto molti saggi su questo tema e quindi approfondiremo anche questo aspetto, perché arrivare a quei livelli significa avere anche un certo tipo di personalità, insomma, perché di violenza molti saranno anche capaci, ma fino a quel punto bisogna avere che cosa? Una predisposizione? Tra l'altro, da perquisizioni e anche dalle autopsie di alcuni terroristi morti si è scoperto, si è visto che fanno un largo uso di droghe, di una in particolare, di cui ci occuperemo più tardi. Intanto vedo delle notizie che stanno arrivando adesso, molto stellate, come si dice, col bollino rosso, cioè molto importanti. È stata rinvenuta una borsa sospetta vicino all'ambasciata americana a Roma, e in più, adesso scorrono velocissime, quindi spero di riuscire a vederle velocemente, allerta attentati dopo nuovi elementi investigativi in Italia, più controlli a Roma e a Milano, vabbè, chiaro, sono le due città diciamo più importanti, più grandi, e poi un professore di scuola ebraica è stato accoltellato a Marsiglia in Francia. Mentre voi fate le vostre riflessioni tranquillamente al 349-238-6666 su che cosa vogliono toglierci, qual è l'obiettivo alla fine di questi terroristi, sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, i titoli più importanti. Blitz nel covo dei jihadisti, almeno due terroristi morti, il terzo potrebbe essere la mente degli attacchi a Parigi, 8 gli arresti. La minaccia dell'ISIS, isseremo la bandiera nera sul Vaticano, e oggi Piazza San Pietro era semivuota e blindata per l'udienza del Papa. La crisi di Parigi, il presidente della Commissione europea Juncker assicura fuori dal patto di stabilità le spese per le misure antiterrorismo. Le dichiarazioni di Renzi, niente isteria, tuteliamo la sicurezza ma non rinunciamo alla nostra identità, non cambia la carta costituzionale, no a leggi speciali sulla sicurezza. L'aereo russo precipitato nel Sinai, la bomba che ne ha provocato l'esplosione sarebbe stata confezionata con una lattina di Schweppes. La scomparsa di Moira Orfei, ultimo saluto a San Donà di Piave, il feretro della regina del circo trasportato da 4 cavalli. Calcio e scandali, la FIFA respinge il ricorso di Blatter e Platini, per lui, per Platini, sempre più in salita la scalata alla presidenza. Quindi partiamo da questa notizia, che è stata rafforzata la sicurezza in Italia ulteriormente per un'allerta attentati in base a informazioni che fanno riferimento a possibili attacchi ai principali luoghi di culto e di aggregazione in Italia. E poi invece, tornando alla Francia, aspettando che ci siano ulteriori agenzie e aggiornamenti su questa allerta, oggi c'è stato nell'alba parigina un blitz delle teste di cuoio francesi in un covo di jihadisti nel quartiere parigino di Saint-Denis. I morti sono stati almeno 3, ma il procuratore non ha ancora svelato l'identità di questi che sono rimasti uccisi, mentre si sono rincorse le voci durante tutto il giorno sul fatto che uno dei 3 potrebbe essere la mente degli attacchi di Parigi di venerdì, Abdelhamid Abaoud. Nel raid la polizia, fra l'altro, ha sparato 5.000 colpi, ma vi rimando dopo per i dettagli di questo blitz e per fare il punto anche sulle indagini. Intanto è stato presentato oggi in Consiglio dei Ministri in Francia il progetto di legge che proroga fino a febbraio lo stato di emergenza, e nelle ultime ore è tornato a parlare il presidente Hollande. Ces attentats ont ensanglanté Paris et Saint-Denis. Siamo in guerra contro il terrorismo. Il presidente francese Hollande torna a ribadire la linea tracciata la notte stessa degli attacchi a Parigi, parlando alla conferenza dei sindaci transalpini proprio nei minuti successivi alla conclusione dell'assalto a Saint-Denis. Ora è ad altissima tensione e Hollande ne approfitta per ricordare le potenzialità del nemico. L'ISIS dispone di un esercito, di risorse finanziarie, occupa uno stato e vuole attaccare l'idea stessa di Francia. Ai terroristi Hollande manda un messaggio: la Francia resterà sempre la stessa, un paese di libertà. Ma intanto è obbligato ad annunciare la ripresa dei controlli alle frontiere e a confermare misure straordinarie, misure incarnate dal prolungamento dello stato d'emergenza che sarà esaminato nelle prossime ore da Assemblea Nazionale e Senato. Sarà prolungato per 3 mesi e prevede, tra le altre cose, obbligo di residenza per persone sospettate di terrorismo e maggiore facilità nelle perquisizioni. Anche il premier Valls ha identificato l'ISIS come un nemico da distruggere insieme. Da Bruxelles il presidente della Commissione Juncker conferma l'atteggiamento di apertura verso la Francia sul fronte conti pubblici, dopo la chiara intenzione transalpina di sforare i vincoli comunitari per aumentare le spese di sicurezza e difesa. La Francia deve affrontare gravi atti di terrorismo e deve affrontare spese supplementari che non devono avere lo stesso trattamento delle altre uscite, ha detto Juncker. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ISIS oggi ha lanciato, vi dicevo, un'ulteriore minaccia: isseremo la bandiera nera sul Vaticano, e oggi Piazza San Pietro era semivuota e blindata per l'udienza del Papa. È annunciato anche l'ISIS di aver ucciso 2 suoi prigionieri, un norvegese e un cinese, e la rivista Dabiq ha pubblicato le foto di 2 cadaveri. Nel frattempo il presidente della Commissione Europea Juncker oggi ha assicurato: la Francia deve affrontare gravi atti di terrorismo e deve affrontare spese supplementari che non devono avere lo stesso trattamento delle altre spese rispetto al patto di stabilità, e il principio, ha detto Juncker, vale anche per gli altri paesi. Quindi ha praticamente annunciato flessibilità per le spese per il terrorismo. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi dice: oltre alla sicurezza va tutelata la nostra identità, come avete sentito all'inizio, ma soprattutto niente isterie. Noi dobbiamo innanzitutto vivere mantenendo forte la fierezza, l'orgoglio di ciò che siamo. Io credo che noi non possiamo rinunciare alla nostra identità, aggiungo, non dobbiamo rinunciare alla nostra identità. Né sottovalutazioni né isteria, bisogna trovare la giusta misura tra sicurezza e libertà, ma il tema è complesso, ammette lo stesso Premier Renzi in un'intervista su Sky TG24, dove fa eco alle parole del capo dello Stato Mattarella, che aveva invitato a non farci rubare il nostro modello di vita e il nostro futuro. Il terrore vorrebbe snaturarci, noi non ci piegheremo. Poi il punto sulle misure per contrastare la minaccia terroristica. Il Premier esclude leggi speciali o modifiche costituzionali, sì invece a interventi normativi per rafforzare l'intelligence con più investimenti in tecnologie di cyber security, ed è bene che l'Europa consideri queste spese fuori dal patto di stabilità. Quanto un eventuale intervento militare, ribadisce la linea della prudenza: prima di bombardare bisogna sapere quali sono i target. La proposta di Putin di una grande coalizione comunque, dice, mi sembra molto giusta. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Renzi ha detto poi che non intende rinunciare per nulla al Giubileo, e a proposito di Vaticano, Giubileo, proprio questa mattina il Papa nella sua udienza in Piazza San Pietro ha invitato a tenere le chiese, le porte aperte, non blindate, insomma. Per le missioni di intelligence gli 007 italiani potranno avvalersi delle forze speciali. Dopo gli attentati di Parigi, l'Italia si prepara ad una guerra asimmetrica e per questo i servizi di intelligence potranno avvalersi delle forze speciali. Che cosa vuol dire? C'è un emendamento al decreto per le missioni che offre una nuova linea di intervento militare. In pratica il Presidente del Consiglio può emanare disposizioni per l'adozione di misure di contrasto in situazioni di crisi oppure di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa, cioè le forze speciali. La decisione del Premier è però vincolata dal parere del COPASIR, cioè il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza. E in questa nuova guerra contro un nemico che può colpire ovunque, c'è chi, come il prefetto di Roma Franco Gabrielli, grande esperto di terrorismo, propone l'intercettazione e l'eventuale abbattimento di droni sospetti in volo sui nostri cieli. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come vi dicevo, quindi, questa borsa sospetta di colore scuro è stata rinvenuta alla fermata dell'autobus vicino all'ambasciata americana a Roma. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che stanno controllando il contenuto della valigia segnalata all'incrocio tra via Veneto e via Bissolati. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso il tratto di strada in corrispondenza dell'ambasciata. E stasera a Venezia, in piazza San Marco, c'è una fiaccolata che è stata promossa dal comune e dagli amici di Valeria Solesina, la studentessa veneziana che è morta nel massacro del Bataclan a Parigi. Migliaia coloro che hanno risposto all'invito a trovarsi davanti alla Basilica per testimoniare la vicinanza alla famiglia della ricercatrice della Sorbona, ma anche a quelle di tutte le altre vittime degli attentati di Parigi. E passiamo all'aereo precipitato sul Sinai. La bomba che lo ha fatto esplodere sarebbe stata una lattina di acqua tonica, secondo quanto si può vedere nella nuova rivendicazione contenuta nel magazine Dabiq dell'ISIS, con tanto di foto poi pubblicata dal sito Site. Just Terror è il più che esplicativo titolo del numero 12 di Dabiq, strumento di propaganda dell'ISIS, travestito da rivista patinata online. A quanto divulga il site, che monitora gli account e i siti jihadisti, nel mensile i terroristi dedicano la copertina al massacro di Parigi e poi ampio spazio al disastro aereo sul Sinai. Attraverso una foto i terroristi affermano di mostrare la bomba che ha fatto precipitare l'aereo della Metrojet. Nell'immagine si vedono una lattina di Schweppes Gold e accanto due piccoli congegni. Un ordigno, quello immortalato, che sarebbe stato introdotto a bordo, si legge sempre su Dabiq, dopo aver trovato il modo di eludere la sicurezza allo scalo di Sharm el-Sheikh. Il terrore non si ferma qui, perché sempre su un nuovo numero lo Stato Islamico annuncia di aver ucciso due ostaggi, un norvegese di 48 anni di Oslo e un cittadino cinese di 50, consulente di Pechino. Notizie, queste pubblicate dall'ISIS, di cui ad ora non si hanno conferme ufficiali, ma che lo Stato Islamico stia cavalcando il momento è dimostrato dall'ennesima minaccia diretta al cuore dell'Europa. Sul nuovo numero gli jihadisti promettono di continuare a combattere finché la bandiera del Califfato non sarà issata su Istanbul e sulla città del Vaticano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo anche di economia. Ultime correzioni alla legge di stabilità prima del passaggio in aula e rinviati passaggi più politici. Ultime modifiche alla manovra in commissione bilancio del Senato prima del passaggio del testo in aula. Gli interventi a Palazzo Madama hanno riguardato soprattutto le tasse sulla casa. Gli altri temi di maggiore scontro politico sono stati infatti rinviati alla Camera, tra questi il limite all'uso dei contanti, le pensioni, gli interventi per il Mezzogiorno. Quanto alla tassazione sugli immobili, sconto allora IMU del 25% per i proprietari di una seconda abitazione che scelgono di metterla in affitto a canone concordato. Gli immobili poi dati in comodato ai figli non pagheranno come seconde case, ma saranno esentati dalla TASI. Stretta sugli affitti in nero ed obbligo di registrare i contratti entro 30 giorni. Quindi le altre misure, dimezzate i tagli a CAF e patronati, canone RAI in bolletta elettrica e pagamento in 10 rate. Salta invece la riduzione dell'aliquota sull'IVA per il pellet, che la manovra faceva scendere dal 22 al 10%. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è l'ultimo saluto al Moira Orfei, è arrivato questo pomeriggio alla chiesa di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove la regina del circo è nata. Il feretro dell'Orfei è arrivato con 4 cavalli bianchi e una carrozza antica. E vi ricordo che la regina degli elefanti è morta nella notte tra sabato e domenica all'età di 83 anni. Poi per calcio e scandali, la FIFA che respinge il ricorso di Blatter e di Platini, quindi è confermata la loro sospensione, poi ne parleremo più tardi. E per chiudere parlerei anche del meteo. Se questo novembre è risultato, l'abbiamo detto nei scorsi giorni, il più caldo negli ultimi 50 anni, ottobre ha segnato un record dei record, non solo come ottobre più caldo dal 1880, ma anche per aver fatto registrare la maggior differenza di temperatura di ogni altro mese. Pesano le emissioni di gas serra, influisce anche il fenomeno di El Niño. Lo scenario globale però purtroppo non deve ingannare, nel senso, va bene, questo caldo non è dovuto a questioni e fenomeni naturali, però a molti faceva piacere. L'inverno sta arrivando anche in Italia con un tracollo termico nel prossimo fine settimana, quindi praticamente è dietro le porte. Prima di lasciarci per brevi aggiornamenti sulla viabilità, volevo leggere qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Note, il 349-238-6666. Per esempio Elisabetta Da Lucca scrive: l'Occidente organizza la vita come organizzasse una festa, l'Islam come un compito da assolvere, forse abbiamo perso tutti la giusta misura. Elisabetta, sei un po' criptica in questo tuo messaggio, comunque poi darò spazio agli altri e tra poco facciamo il punto sulle indagini dopo gli attentati di Parigi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora invece leggo un'interpretazione un po' particolare di questo ascoltatore che si firma Giulio Gallo, dottore in storia e antropologia delle religioni. Dice: non erano uomini quelli che hanno fatto l'attentato a Parigi dello Stato Islamico, non c'è nessun riferimento al loro modus operandi, non c'è jihad, sono giovani francesi affetti da anomia nella banlieue per vendicarsi, cioè le periferie francesi, per vendicarsi del governo francese, stanno prendendo in giro il mondo intero. Non credo, Giulio. Comunque tra poco faremo il punto sulle indagini in Francia. Adesso vi ricordo, se avete acceso la radio non puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Blitz nel covo jihadista a Parigi, uccisa forse la mente degli attacchi, ne parleremo tra pochissimo, almeno 3 morti e 8 gli arresti. Rafforzata la sicurezza per allarme attentati in Italia, mentre l'ISIS minaccia il Vaticano, ci sono più controlli a San Pietro. E poi il presidente della Commissione europea Juncker dice che le spese per il terrorismo sono fuori dal patto di stabilità e questo vale per tutti i paesi europei. Renzi dice: nessuna modifica alla Costituzione, non ci saranno leggi speciali, semmai investimenti sulla sicurezza. Per quanto riguarda l'aereo precipitato sul Sinai, la bomba sarebbe stata confezionata in una lattina. Fischi al minuto di silenzio nella partita tra Turchia e Grecia, bufera sui tifosi turchi. E poi, per quanto riguarda la manovra, la legge di stabilità italiana, niente tasse sulla casa per separati e poliziotti. E è morto la leggenda degli All Black di rugby, Jonah Lomu, gigante buono del rugby. Solo la morte è riuscita a placcare. Carti, così l'omaggio commosso di tutto il mondo. Che sentite sono i botti, gli spari che ci sono stati nel blitz di oggi a Parigi, nel quartiere di Saint-Denis, che è stato, diciamo, l'evento che caratterizzato un po' questa giornata nell'ambito delle indagini conseguenti agli attentati di Parigi. Un blitz nell'alba parigina delle teste di cuoio francesi in un covo di terroristi. Ci sono stati almeno 3 morti, una donna kamikaze che è un terrorista e l'altro potrebbe essere la mente degli attentati di Parigi, ma si sono rincorse le voci, smentite, poi di nuovo affermazioni. Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao. Questo Aboud, considerato la mente degli attentati di Parigi, è veramente lui? Ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi di Abdelhamid Abaoud, questo 20enne belga con origini marocchine, che è considerato appunto la mente di queste stragi, l'uomo che era anche a capo della cellula di Verviers, a cui in qualche modo vengono collegati anche gli attentati nella redazione di Charlie Hebdo. Lui sarebbe appunto la mente delle stragi di Parigi e non è ancora sicuro, non c'è ancora conferma sulla sua presenza nel covo di Saint-Denis, di Rue Corbillon, dove questa notte c'è stato l'assalto delle teste di cuoio francesi. In realtà da subito si sono rincorse indiscrezioni, prima di un quotidiano belga, Le Dernier Heure, poi della conferma anche della Washington Post, che sarebbe proprio lui uno dei 2 terroristi morti durante l'assalto. Dei 3 morti, una è una donna kamikaze, che è la cugina appunto di Abaoud, che si è fatta saltare in aria azionando la sua cintura esplosiva nel momento in cui ha iniziato l'assalto delle teste di cuoio, una ragazza di 26 anni. Dopodiché ci sono questi altri 2 terroristi morti, di cui le autorità ufficialmente non danno alcuna conferma sulla identità. Ci sono degli esami, compresi del DNA, ancora in corso. Nulla in realtà viene detto neanche rispetto agli 8 fermati, se non che il procuratore François Molen ha solo detto che né Abdelhamid Abaoud né Salah Abdesman, cioè l'ottavo membro del comando di venerdì 13, sarebbero tra i fermati. Quindi almeno uno dei 2 è tra le vittime, oppure sono ancora in fuga. Raffaella, tra l'altro hai visto che un professore di scuola ebraica è stato accoltellato a Marsiglia. Non è detto che sia collegato questo, ma certamente in un clima di il tensione. Il clima di questi giorni è purtroppo questo, e sicuramente in qualche modo rientra in questa situazione di grande allerta che c'è in particolar modo a Parigi, ma poi in tutto il mondo. Anche perché infatti in tutto il mondo adesso vedo un'agenzia che dice: allarme dell'FBI su San Pietro, Duomo Scala di Milano. Attentati in Italia sarebbe, per questo allarme, attentati in Italia sarebbe scattato in seguito a una segnalazione dell'FBI americana che indicava come possibili obiettivi San Pietro a Roma, il Duomo e la Scala a Milano. Il Federal Bureau Investigation, secondo quanto si apprende, avrebbe rilanciato ai servizi italiani un'informativa a sua volta ricevuta dalla DEA. Adesso è chiaro. Ed è questo anche la ragione per cui sono state ulteriormente rafforzate le misure di sicurezza intorno a questi che sono già di per sé degli obiettivi sensibili italiani. Però ecco, proprio questa segnalazione che arriva dall'FBI ha fatto ulteriormente rafforzare queste misure di sicurezza. Sappiamo perfettamente anche come l'imminente giubileo crei ulteriore allarme in certo. Italia, però come ha detto anche più volte il ministro dell'interno, nessun paese può dirsi a rischio zero, immune, ma dall'altra parte non ci sono segnalazioni di attentati, diciamo di preparazione di attentati contro il nostro paese. Ben diversa la situazione francese, dove anche dagli ultimi elementi investigativi emergono che lo stesso gruppo di fuoco di Parigi aveva ancora altri due piani di attentati, uno contro la Défense, un altro contro l'aeroporto di Charlie Hebdo. Quindi da una parte ancora il quartiere degli affari di Parigi, dall'altro il più importante scalo del paese francese. Tutto questo sta emergendo da segnalazioni, dallo studio dei materiali e dal fatto anche dalle comunicazioni che proprio questa giovane donna ha in qualche modo dato agli inquirenti. Asna Aiboulachen, 26 anni, francese, cittadina francese, ossessionata dal jihad, specificano gli inquirenti, e cugina dello stesso Abaoud. Proprio anche dalle sue conversazioni in qualche modo è emerso il piano stragista, ulteriormente stragista, di questo gruppo di fuoco, della cui composizione a questo punto non è neanche possibile dire quale fosse. Diciamo nove membri, si è detto fin dall'inizio in realtà, nove membri delle tre squadre che sono entrate in azione venerdì. Solo ieri c'è stata la conferma dalle autorità, ma già si sapeva che erano nove i membri. E poi quanti sono ancora i fiancheggiatori, quanti altri li hanno aiutati, dove si trova in fuga in questo momento Abzelman e ancora Abaoud, appunto quest'uomo il cui video tempo fa era diventato famoso soprattutto sul web, perché lui, che dal Belgio era andato in Siria per poi ritornare in Francia, esaltava il jihad, lui che aveva fatto arruolare il suo fratello di 13 anni, e bisogna anche dirlo che è l'uomo che gli stessi familiari vorrebbero morto. In una conversazione col New York Times i genitori hanno proprio detto che si augurerebbero che morisse. Forse è il male minore, almeno per loro. Grazie Raffaella Calandra. Grazie a te Roberta. Ciao. Ora, in tutto questo scenario l'ONU ha detto che non si esclude, il Consiglio di Sicurezza non esclude nessuna opzione per rispondere agli attentati di Parigi, anche un'azione militare contro l'ISIS, anche se viene un po' da domandarsi come mai l'ONU, ma a meno che non mi sia sfuggito prima, si muova adesso in questo senso. E poi il presidente della Commissione Europea, Juncker, ha detto che l'ISIS è il nemico numero uno dell'Europa, e non solo, ha detto che bisogna mettere fine a questa barbarie. Abbiamo parlato della flessibilità che la Commissione Europea vuole riconoscere a tutti i paesi per quanto riguarda le spese per la sicurezza contro il terrorismo. Mosca ha rafforzato la sicurezza in scuole, teatri, in tutte le istituzioni culturali. La Svezia ha annunciato di aver elevato il livello d'allerta da 3 a 4, il massimo a 5. La Germania non esclude un impegno delle forze armate in Siria, che questa non so se può essere una novità effettivamente per la Germania. Mentre Renzi, poi sentiremo man mano i vari passaggi dell'intervista a Sky TG24. Saluto intanto Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Torelli. Buonasera a voi. Mi chiedevo, per esempio, per quanto riguarda l'ONU, che ha detto che non si esclude nessuna opzione per rispondere agli attentati di Parigi, finora l'ONU dove è stato? Forse non mi sono accorta io. L'ONU, diciamo, innanzitutto è sempre stata, diciamo così, bloccata in un senso o nell'altro da quel meccanismo che ormai tutti conosciamo di veti incrociati all'interno del Consiglio di Sicurezza, che diciamo non ha mai permesso più di tanto, soprattutto negli ultimi anni, insomma, all'ONU di esercitare un qualche ruolo effettivo, insomma, nelle crisi internazionali. Sappiamo benissimo come in tantissimi casi molte risoluzioni che erano state proposte, non soltanto su questa crisi, anche su molte altre, insomma, all'interno del Consiglio di Sicurezza, sono state poi bloccate da questo potere di veto che hanno i cinque paesi membri del Consiglio di Sicurezza, esercitati poi soprattutto nel tempo dalla Russia, dalla Cina e poi a parti invertite a volte anche appunto dal blocco, diciamo così, occidentale. L'ONU ha un inviato, avrebbe un inviato in Siria per la risoluzione del conflitto siriano, che tra l'altro attualmente è un diplomatico italiano, Staffan de Mistura, che è anche la persona che è stata un po', diciamo così, individuata come un possibile traghettatore, diciamo comunque garante di una sorta di accordo che si stava delineando e si sta delineando nel consesso di Vienna, dove le potenze internazionali stanno cercando di capire come uscire dalla crisi siriana. Però ecco, sul tema dell'ISIS, diciamo dello Stato Islamico, del sedicente califfato, chiamiamolo come vogliamo, insomma, nello specifico non ha ancora mai espresso una posizione chiara. Da un certo punto di vista pesa anche il fatto, diciamo, che questo sedicente califfato non è di fatto un attore statale riconosciuto dalla comunità internazionale, quindi è anche più difficile, se vogliamo, riuscire ad intervenire. E poi è più difficile intervenire, o forse, se, come si è ripetuto varie volte, si è troppo sottovalutato, oppure c'è qualcuno che ha interessi ad alimentarlo, a direzionarlo verso una parte o l'altra, secondo me? Sì, certo. Allora, qui però uscirei un attimo dal discorso ONU, nel senso, certo, se l'ISIS, ripeto, chiamiamolo come vogliamo, per semplificare, diciamo, l'ISIS oggi è nella situazione in cui è e quindi è stato capace anche di, diciamo, accrescere un po' la sua forza, la sua influenza sull'area che controlla, è anche perché più che qualcuno ha voluto che così fosse, o dall'altro lato che qualcuno ha troppo sottovalutato, dal mio punto di vista è anche perché tutti gli attori esterni che avrebbero potuto e potrebbero ancora fare qualcosa concretamente per eradicare la presenza dell'ISIS nell'area, sostanzialmente si trovano ancora troppo in disaccordo su un punto, cioè su cosa sarà dopo. Questo è il vero punto interrogativo, cioè tutte le potenze regionali e internazionali, dalla Russia agli Stati Uniti, all'Iran, alla Turchia, all'Arabia Saudita, allo stesso Israele, insomma, che in un modo o nell'altro stanno cercando di capire come si possa superare questa fase, non sono tanto, o meglio, almeno fino agli attentati dell'altro giorno, poi adesso sembra che almeno a parole qualcosa si sta muovendo, però non sono tanto concentrati sul combattere l'ISIS. Su questo paradossalmente sembrano essere tutti d'accordo, cioè se c'è un elemento che mette tutti d'accordo è che l'ISIS è nemico da combattere. Il vero problema è cosa succede il giorno dopo, quali saranno gli equilibri il giorno dopo, e su quello e su come poter immaginare, costruire un nuovo Medio Oriente, una nuova Siria, un nuovo Iraq in un eventuale post ISIS, evidentemente ancora non c'è. E intanto ci sono gli attentati di Parigi, ancora vedo adesso l'FBI segnala all'Italia 5 nominativi sospetti, avrebbe segnalato l'autorità italiana 5 nominativi su cui svolgere approfondimenti investigativi. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di nomi arabi sui quali però al momento non ci sarebbero riscontri. E poi poco fa anche di questa borsa sospetta rinvenuta vicino all'ambasciata americana a Roma. E poi l'altra cosa era questo allarme sempre dell'FBI su San Pietro, il Duomo di Milano e la Scala a Milano. Quindi insomma l'Italia in questa posizione, poi vediamo se riusciamo a sentire dopo alcuni passaggi di Renzi, ma mi sa che non abbiamo tempo. Però le chiedo, Torelli, anche il ruolo della Germania, mi sembra che finora la Germania non sia stata particolarmente interventista in nessuno scenario, anche questo mi è sfuggito. La Germania, diciamo che in tutto il periodo post guerra fredda, in realtà, e per motivi ben noti anche prima, insomma, certo, dopo la seconda guerra mondiale, si è tenuta un po' fuori. Esatto, una posizione abbastanza, se così vogliamo dire, neutrale o comunque non interventista, e questo è valso un po' per tutti i grandi, diciamo, interventi che vi sono stati, pensiamo per esempio a quando fu l'intervento americano in Iraq, in cui appunto la Germania insieme alla Francia di allora si tirarono fuori, pensiamo anche a la cosiddetta stagione delle primavere arabe, l'intervento in Libia, insomma la Germania ha sempre mantenuto questa posizione un po', diciamo, attendista o comunque neutrale, se così possiamo dire. Invece adesso vedevo appunto che la Germania, il settimanale del Spiegel cita fonti vicino alla cancelliera Merkel, la Germania non esclude un impegno delle forze armate in Siria. Sì, ecco, chiaramente questo essere... sarebbe una novità, sicuramente la Germania, tra l'altro, forse per la prima volta comincia ad essere anche coinvolta direttamente da tutto quello che sta accadendo. Questo è successo a Hannover ieri, no? Con l'allarme. È un sintomo comunque anche quello, e la Germania potrebbe, anche per il ruolo che ha negli ultimi anni, un ruolo chiaro, evidente, non potrebbe nasconderlo, di leader comunque, o di un paese che si pone come leader dell'Europa, nell'eventualità in cui vi fosse veramente un'azione più partecipata, più concreta dei paesi europei nei confronti dell'ISIS, chiaramente la Germania non potrebbe tirarsi fuori. Sarebbe una novità, chiaramente, però dovremmo poi andare a vedere chiaramente i cosa si sta parlando. Lo stesso meccanismo del famoso articolo 42.7 del Trattato di Lisbona, che ha richiamato anche Hollande nel suo discorso alle Camere riunite, che vorrebbe che tutti i paesi europei, insomma, fossero in qualche modo solidali con la Francia qualora si decidesse un intervento di un certo tipo, non è comunque chiaro, cioè si tratterebbe poi bilateralmente di capire ogni paese in che modo può contribuire. Certo. Quindi ecco, se pensiamo anche l'Italia in qualche modo sta dando il suo contributo, ma è un anche contributo... se per il momento Renzi ha chiarito, anche la ministra Pinotti ieri, che non interverremo in Siria militarmente, almeno per il momento. Stefano Torelli, io la ringrazio e poi ci ritroveremo nei prossimi giorni, naturalmente. Grazie a voi. Le analisi saranno lunghe, anche le indagini. Grazie Stefano Torelli. Ci prendiamo una pausa di ricreazione e tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. A proposito del massacro di Parigi, Assad, il dittatore sanguinario siriano, dice: è stato un crimine orribile, verrebbe da dire, lui sì che se ne intende, insomma sa di cosa parla. Roberta Giordano sempre con voi con i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, con Fabrizio che dice: dobbiamo forse ringraziare gli Stati Uniti dopo il 2001 per quello che sta accadendo oggi, insomma una situazione più complessa di così. Comunque tra pochissimo cercheremo di delineare il profilo anche psicologico di chi abbraccia l'ideologia del terrorismo, il terrorismo integralista islamico. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti prima. Blitz nel covo dei jihadisti, almeno due terroristi morti, il terzo potrebbe essere la mente degli attacchi a Parigi, 8 gli arresti. E poi la minaccia dell'ISIS che dice: esseremo la bandiera nera sul Vaticano. Infatti poco fa è arrivato l'allarme dell'FBI su San Pietro, il Duomo e la Scala di Milano. La crisi di Parigi, il presidente della Commissione Europea Juncker assicura: fuori dal patto di stabilità le spese per le misure antiterrorismo. Le dichiarazioni di Renzi, niente isteria, dice: tuteliamo la sicurezza ma non rinunciamo alla nostra identità, non cambio la carta costituzionale, no alle leggi speciali sulla sicurezza. E poi l'aereo russo precipitato nel Sinai, la bomba che ha provocato l'esplosione sarebbe stata confezionata con una lattina di Schweppes. Quindi, come vi dicevo all'inizio, dalle perquisizioni nei covi dei terroristi e anche dalle autopsie fatte sui corpi dei terroristi uccisi che si sono fatti esplodere, insomma, emerge che si drogano per aiutarsi a compiere le stragi, le carneficine. Il Captagon è considerato la droga dei jihadisti, una pasticca che servirebbe per togliere la paura, costa dai 5 ai 20 dollari a dose. Si tratta di un mix di anfetamina e di caffeina miscelato con altre sostanze che inibisce totalmente la paura, il dolore, provocando una forte euforia e quindi dà la sensazione di essere invincibili. Il primo paese produttore, ha iniziato da decenni a produrle in Medio Oriente, adesso il primo paese produttore, pensate un po', è la Siria. Ne vorrei parlare con Corrado De Rosa, che è psichiatra e scrittore e ha scritto spesso di questo connubio tra salute psichica e criminalità. Buonasera De Rosa. Buonasera a voi, salve. Se lei dovesse così analizzare, fare un quadro, un profilo tipico di chi aderisce a questo modus vivendi, come lo vogliamo chiamare? Modus morendi, non lo so. Sì, forse modus morendi è molto centrale, ma in realtà non ci sono dei criteri strettamente scientifici che definiscano la psicologia di un terrorista. È chiaro che le caratteristiche, per esempio, di un jihadista che vive in Europa sono diverse da quelle che vive in Siria, però se vogliamo ragionare su alcuni aspetti, al di là di quello che noi conosciamo, no? Quindi la mancata integrazione, l'odio, eccetera, eccetera, c'è una problematica che riguarda i fattori proprio sociali, sociodemografici di questi qua. Questi sono giovani, spesso single, vengono da famiglie che non sono sempre così disagiate e disperate come pensiamo. Mohamed Datta, per esempio, veniva da una famiglia di media borghesia, quello dell'11 settembre. Sono di media cultura. Ovviamente, dal punto di vista più strettamente psicologico, loro si muovono su tre assi fondamentali, no? Il criterio dell'alienazione, no? Cioè quello di vivere in un gruppo di iniziati. Il criterio del fondamentalismo, cioè il pensiero rigido di cieca accettazione del Corano, e questo è un meccanismo che dal punto di vista psicologico produce un'organizzazione di pensiero che è uguale a se stessa e che per ragioni completamente differenti, però vediamo in altri sistemi criminali, cioè il jihadista non pensa perché c'è il Corano che pensa per lui. Questo non è debolezza anche psicologica, psichica di uomini alla fine che sono più quasi dei poveretti che non degli uomini forti, hanno bisogno di aggregarsi, hanno bisogno di un'ideologia forte, di un... Certo, di un se pensiamo al fatto che questo modus di pensiero si struttura su figure che hanno bisogno di sicurezza, bisogno di identità, magari su personalità fanatiche, no? Quindi personalità che pensano ossessivamente ad un'idea, che sono influenzate molto dal carisma, oppure hanno, che ne so, la difficoltà di scendere a compromessi. Ecco, allora lì quella diventa una missione esplosiva. Certamente si basa, insomma, attecchisce su un territorio che è come quello che lei descriveva, sicuramente. Del resto, se posso aggiungere, sì, a proposito del Captagon, questo meccanismo, quello cioè di assumere sostanze che disinibiscono, no? Perché poi, in sintesi, abbassare paura, fatica, sonno, dolore, appetito e tutto quello che fa il Captagon, che è una sostanza che dagli anni 80 non è più in commercio perché dà dipendenza, in realtà è una cosa che storicamente nelle guerre si è utilizzato e che adesso i killer di camorra, per esempio, fanno quando tirano cocaina prima di andare a sparare. Il meccanismo è sempre lo stesso. Quindi però è come se non assumessero queste droghe, non sarebbero in grado di fare quello che fanno? Cioè hanno bisogno anche di un supporto? In realtà lo fanno perché abbassano la soglia dell'inibizione, cioè certo. In effetti è quello che succede con i genocidi, per esempio, no? Io ricordo che durante la guerra civile in Sierra Leone c'erano i bambini che assumevano questa sostanza che si chiama brown, che era un misto di cocaina e polvere da spazio, e gliela facevano, assorbire attraverso piccole ferite, in modo che loro perdevano i freni inibitori, erano molto accelerati e diventavano delle macchine da guerra. Stessa cosa, i mix di alcol e droga, per esempio, da parte di chi faceva i genocidi in Ruanda oppure nell'ex Jugoslavia. Cioè non è che è soltanto che senza questo non farebbero, semplicemente loro utilizzano queste sostanze per ridurre la soglia di inibizione, per accelerare il modo di pensare, per essere sempre più efficaci, per essere più concentrati sull'obiettivo, per avere sempre meno bisogno di sonno, in una parola per essere in qualche modo accelerati e per pensare meno alle conseguenze dei gesti. D'altronde loro spesso utilizzano questo meccanismo, no? La neutralizzazione del pensiero. Loro si concentrano su cose concrete per non pensare alle conseguenze, si giustificano nei comportamenti, no? Loro dicono sempre: io faccio così, ma perché tu hai fatto qualcosa di molto più grave di quello che ho fatto io. Sono una serie di meccanismi che loro utilizzano per, in qualche modo, bypassare, no? Aspetti etici, morali, di questioni che hanno a che fare comunque con una guerra propria, no? È stato chiarissimo e anche molto interessante, Corrado De Rosa, la ringrazio per questo quadro. Grazie, buona serata. Vieni. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccole brevemente, notizie più importanti: questo blitz all'alba nel covo dei jihadisti a Parigi, almeno 2 terroristi morti, il terzo potrebbe essere la mente degli attacchi a Parigi, 8 gli arresti intanto. E per quanto riguarda l'allerta, si alza anche sull'Italia, in particolare su alcuni obiettivi, San Pietro a Roma e poi il Duomo e la Scala di Milano. Intanto leggo che sono risultati negativi i controlli su una borsa vicino all'ambasciata americana a Roma, cioè non c'era per fortuna nessun ordigno. Intanto l'ISIS minaccia di issare la bandiera nera sul Vaticano, la crisi di Parigi con il Presidente della Commissione Europea Juncker che assicura fuori dal patto di stabilità le spese per misure antiterrorismo, e poi Renzi che dice niente isteria, tuteliamo la sicurezza ma non rinunciamo alla nostra identità. Europa 24 notte. E sempre in linea con questi temi, praticamente su cui concentriamo inevitabilmente le trasmissioni effetto notte, se ne parla da 2 anni, ma il registro dei passeggeri dei voli aerei non è stato ancora definito. Molto forti sono state le resistenze nell'Europarlamento per motivi di privacy. I principali nodi della trattativa restano l'applicazione del registro per i voli all'interno dell'Unione e la durata della conservazione dei dati. Il cammino sembra ancora lungo, anche se se ne parla da tempo. Il registro dei passeggeri dei voli aerei, PNR, è ancora oggetto di incontri tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo. La Commissione e il Consiglio lo ritengono fondamentale per la prevenzione e la lotta al terrorismo, ma il dossier è bloccato da oltre 2 anni all'Europarlamento, che ha sempre espresso forti preoccupazioni per la privacy. I fatti di Parigi, però, dettano una tempistica diversa. On EU PNR discussions with the European Council and Parliament are ongoing. We are working to reach an agreement before the end of the year. Sul PNR non c'è tempo da perdere, abbiamo avuto momenti non poco difficili, ma ora c'è un dialogo in corso ed è di cruciale importanza finire il lavoro prima della fine di quest'anno. Così il commissario agli interni Dimitris Avramopoulos, la legislazione finale su cui stiamo lavorando, ha spiegato, dovrebbe essere un dispositivo efficace contro i viaggi dei terroristi nell'Unione. Una data certa dunque non c'è, ma la speranza resta quella di arrivare all'approvazione di una direttiva entro il 2015, come previsto dall'impegno preso dagli europarlamentari a febbraio scorso, con una risoluzione passata in aula a larghissima maggioranza. I principali nodi della trattativa restano l'applicazione del registro per i voli intra Unione Europea e la durata della conservazione dei dati. Se ne parlerà comunque anche alla riunione straordinaria del Consiglio Interni di venerdì. In ogni caso, tra qualche settimana dovrebbe scattare un maggior controllo su tutti i passeggeri europei e non, e un più approfondito controllo dei dati relativi a ciascun passeggero, come ad esempio i voli precedenti, per capirne le motivazioni. A tutte le compagnie, comprese le low cost, verrà chiesto di alzare la vigilanza su bagagli e documenti. Chi ha in programma di partire nel periodo delle feste, metta in conto tempi più lunghi prima di arrivare al proprio posto a bordo di un aereo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Solleviamoci per un po' da queste pesantezze, purtroppo comunque realistiche e concrete, per parlare di pesantezze che invece riguardano Platini, che sperava di diventare presidente della FIFA, caro Dario Ricci. Sì, sì, sì, buonasera. Blatter, il suo, non so se dire, degno compagno, insomma, non so bene. Beh, insomma, sai, il legame è complesso, diciamo che la corsa di Platini non è certo finita, ma è tutta in salita, perché sia lui che Blatter avevano presentato ricorso rispetto a quella sospensione di 90 giorni che il comitato etico della FIFA gli aveva imposto, causa quei circa 2 milioni di euro per corruzione, no? Sono coinvolti in un'inchiesta. No, approvazione indebita, perché in realtà Platini ha ricevuto questi soldi, lui dice, per delle da consulenze Blatter a inizio anni 2000, e di fatto sono stati fatturati un'undicina d'anni dopo, insomma, con tutta calma, ecco, no? Ci vuole calma, sì. Quindi hanno presentato ricorso rispetto a questa decisione del comitato etico. Oggi la Corte d'Appello della FIFA ha respinto questo ricorso, quindi sia Platini che Blatter rimangono sospesi. Quindi la corsa di Platini è in salita, ma ci sono già 5 candidati. Sì, ci sono già 5 candidati. Devo dirti, al di là di dirti tutti i nomi, sì, vabbè, il principe Ali Hussein di Giordania è quello che era stato sconfitto da Blatter. Poi Al Khalifa, lo sceicco, è veramente una figura molto importante e potente, secondo me il grande favorito. Poi Jérôme Champagne, Gianni Infantino, che è il segretario generale dell'UEFA, praticamente il braccio operativo di Platini, figura molto autorevole nell'ambito del calcio mondiale. Ti segnalo questo nome, Tokyo Sexvalle, perché sembra giapponese. Tokyo no, è, in realtà è sudafricano. Ma la peculiarità di questo personaggio, che ora è ministro degli insediamenti per il Sudafrica, ma è stato compagno di prigionia a Robben Island di Nelson Mandela, è stato uno dei protagonisti, anche insieme anche al presidente Jacob Zuma, della Makana Football League, la lega di calcio che i prigionieri di Robben Island riuscirono a sviluppare durante la prigionia. Forse si volesse dare una svolta etica di maggior spessore, di livello, potrebbe essere la scelta giusta, ma staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie Dario. Ciao. Ciao. Noi ci stiamo alle 22.